Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quel giorno, lungo i binari con la mia bicicletta, ho sorriso, poi ho pianto e infine ho deciso che il mondo non l'avevo ancora visto tutto, per poter dire che niente mi avrebbe cambiato la vita. Andai a Treviso, comprai i biglietti per Toronto e dopo meno di un mese partì. Io sono Francesca, vivo a Treviso, ho 37 anni, costruisco fisarmoniche, armoniche, organetti, gli strumenti a lancia libera. Sono una musicista, cantante, folk singer. Francesca è cresciuta sognando il palcoscenico e poi ha percorso la strada impegnativa e faticosa per diventare una cantante lirica. Finché nel 2011, a 34 anni, quando il suo futuro sembrava ormai pianificato, la svolta. Oggi Francesca Gallo è la sola in Italia a poter realizzare interamente nella propria bottega trevigiana una fisarmonica. Sto leggendo un articolo dell'Huffington Post che parla della protagonista e autrice della storia di oggi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, che è la radio del Sole 24 Ore, dove non si fa solo informazione, dove si raccontano anche storie. Io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. È un programma in cui ogni giorno raccontiamo un episodio della vita di qualcuno che ha voglia di raccontarlo, ovviamente. Se non l'avete mai sentito questo programma, se siete in auto e state andando a passare il Capodanno da qualche parte, se state andando in montagna, in campagna, quando avete un attimo di tempo, tornate a casa, quando siete davanti al vostro computer o a un blocco per gli appunti, però poi dovete mandarcelo via mail, quindi comunque il computer serve, cercate di ricordare un episodio della vostra vita che in qualche modo racconti qualcosa di voi. E poi ce lo inviate. Voi siete qui, @radio24.it. Abbiamo raccolto più di 7.000 racconti, abbiamo raccontato più di 500 storie da 2 anni a questa parte. Questa è la terza stagione di questo programma e noi continuiamo a farlo. Un racconto che racconti qualche cosa di voi. Può riguardare l'amore, può riguardare la vita in generale, può riguardare il lavoro, l'amicizia. Può esservi successo ieri, l'altro ieri o 10 anni fa. L'importante è che sia una storia, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi parla veramente di un sacco di cose ed è una storia straordinaria. È vero che queste puntate delle vacanze di Natale sono dedicate al viaggio e infatti la storia di Francesca parla di un viaggio alla ricerca delle proprie origini, sulle tracce, sulle orme delle persone che hanno fatto parte della sua famiglia e che sono emigrate come moltissimi italiani. Lei in particolar modo è veneta e racconta di una parte dell'immigrazione veneta che riguarda il Canada o il Canada, come diceva sua nonna, e a breve ce lo racconterà. La sua storia però parla anche d'altro, parla sì di un viaggio, ma parla di una musicista che poi decide di prendere in mano la tradizione del padre, come vi leggevo poco fa dall'Huffington Post appunto, e decide di portare avanti quella tradizione. 349-238-6666 è il numero per mandarci sms, altrimenti se siete davanti a un computer voi siete qui radio24.it, se invece avete Twitter sullo smartphone voi siete qui R24. Oggi si parla di viaggi appunto sulle tracce della famiglia e sul profilo Facebook sono già arrivati messaggi. Alexandros: sono greco, dice, ma vivo in Italia da 15 anni, dove ho studiato medicina. Ne conosco diversi di greci che hanno studiato medicina in Italia, a Novara in particolar modo. 2 estati fa mi sono trovato per caso a Lipsi o a Lipsos, una piccola isola del Dodecaneso, dove ho incontrato un signore che mi ha guardato e mi ha detto: tu sei il nipote di Apostolinos. Ricordavo che il mio bisnonno era nato in un'isola, ma andare a visitare la sua casa fu una sorpresa incredibile. 349-238-6666. Paolo: sono della Valtellina. Ogni volta che torno in montagna nella casa dei miei genitori, per me è un viaggio nelle origini della mia famiglia, più che una gita sui monti. Se avete voglia di raccontare un viaggio che avete fatto, che vi ha fatto riscoprire dei pezzi della vostra famiglia, noi siamo qui. 349-238-6666. Voi però state lì adesso e ascoltatevi la storia di Francesca. Li guardavo passare, quei treni veloci. Mi chiedevo se davvero mi avrebbero portata in un altro luogo. Li ascoltavo nel loro sferragliare prepotente, poco armonico, per nulla elegante. Ero lì perché consapevole che nulla in questo mondo mi avrebbe ridato la gioia che avevo perduto, che nulla mi avrebbe fatto ridere ancora, che nulla avrebbe potuto cancellare il mio dolore d'amore. Avevo poco più di 20 anni. Ero lì, con la mia bicicletta lungo i binari, ad aspettare il momento giusto. Ma un'immagine a un tratto mi si piazza davanti. Un piatto di tortellini in brodo e mia nonna, che arrabbiata, mi dice: in Canada bisognaria che te fussi. Ho deciso di andare in Canada perché era come ritornare bambina, era come ritornare dentro a quei racconti che mi hanno accompagnata lungo il Cile. Avevo 9 anni e non volevo mangiare i tortellini col brodo di carne. Avevano degli occhi grandi, mi guardavano e io non avevo il coraggio di ingoiarli. Mio cugino 8 anni e mio fratello 7 mi guardavano esattamente con quegli occhi da brodo, forse perché loro i tortellini li stavano mangiando. Mio nonno disse «Coaga fame a magnarà». Mia nonna invece «In Canada bisognaria che te fussi, fiol don can». Nel 1951 Armando, il cugino di mia nonna, partì per il Canada, come tanti altri giovani in quel periodo, lasciando nella povera casa di campagna il resto della famiglia. Per tutti fu un lutto, amplificato poi dalle notizie che giungevano da oltreoceano. Per mia nonna in particolare fu doloroso. Lei, che non sapeva leggere, ma guardava le lettere di Armando come se le asserissero delle grandi verità, lei immaginava e poi ci raccontava. «Il Canadà s'è de là del Mar Grande. Se parla una lingua così difficile che solo chi nasce là riesce a imparar. In Canadà i liga gli uomini con le caene». Io, mio fratello e mio cugino, impressionati dai racconti, una mattina decidemmo di partire per il Canadà. Rubammo la bicicletta verde di mia zia, attaccammo il carretto, svaligiammo la dispensa di pane, formaggio, carote e il prosciutto che sarebbe servito per pranzo e partimmo. Raggiungemmo la punta più lontana dei campi di mio nonno, saltammo il fosso che per noi era il Mar Grande e arrivammo in Canadà. Ci inventammo una lingua difficilissima che solo noi tre ancora parliamo. Lavorammo legati con le catene. Mangiammo dividendoci le cibarie e poi, prima che facesse buio, avevamo già vissuto un'avventura speciale da raccontare ai nostri amici quando saremmo ritornati a scuola. Ecco, quel giorno, lungo i binari, con la mia bicicletta, ho sorriso. Poi ho pianto e infine ho deciso che il mondo non l'avevo ancora visto tutto per poter dire che niente mi avrebbe cambiato la vita. Andai a Treviso, comprai i biglietti per Toronto e dopo meno di un mese partii, prima per il Belgio e poi per il Canada. Da sola, con la mia fisarmonica, 3,50 euro in tasca, 2 cambi di vestiti e un sapone sole di Marsiglia. La fisarmonica era stata costruita da mio padre su misura del bagaglio a mano degli aerei, perché potessi viaggiare libera. Insieme, io e lei abbiamo suonato per strada, dormito in stazione coperte con dei cartoni. Siamo andate a meno 1040 metri nelle miniere di carbone. Siamo andate di casa in casa a chiedere cos'è stata la migrazione italiana in Belgio, con i protocolli d'intesa tra Italia e stati esteri. Una penna, un quaderno che non ho mai più riaperto e tante lacrime per lavare quel nero carbone che mi si attaccava addosso come pece greca. Suonavo davanti alla casa di Van Gogh quando mi servivano soldi per mangiare. Seduta su una pietra, con il cappello girato ad accogliere quello che sarebbe stato il mio traguardo quotidiano. Dopo un mese spesi i primi 2,70 euro per telefonare a casa. «Sto bene, sono viva, non preoccupatevi». Di là solo i singhiozzi di mia madre e un «sta attenta» di mio padre. Raccolsi i miei cocci e partii per il Canada. I don't wanna settle down, I just wanna play my music in this cold and empty house. I don't wanna stay, I got too much in here going on. It's driving me insane, I gotta go. Would you leave now? It all comes back to me. Side for side, I filled my notebooks up with wandering prose. Drinking too much wine, I spent too much time on my own. I just wanna die, gotta go home. Would you leave now? It all comes back to me. It all comes back to me. Dodging everything. Attraversai il Mar Grande, che è davvero grande, e sbarcai a Toronto. E subito capii che la musica era diversa. Tutto meno grigio, tutto più frenetico, tutto meno pauroso di quanto mia nonna mi avesse delineato. Arrivai in città dopo quasi un'ora di autobus e mi accorsi che davvero mia nonna aveva ragione quando diceva che Toronto è una città grandissima, addirittura più grande di Padova. Lei a Padova ci andava ogni anno a piedi con le sue sorelle per il giorno del santo. Lasciai l'Union Station e cominciai a camminare lungo il marciapiede, in direzione sconosciuta, stordita dal traffico e dai suoni poco confidenziali. Trovai due uomini, padre e figlio, che stavano scaricando una lavatrice da un truck. Se no te ciapi dell'alva intera, Sacramento! Buongiorno, sento che siete veneti, come me. E con due parole sicure e chiare dico loro da dove vengo e per fare cosa. Sto cercando Armando, dico, il cugino di mia nonna partito da Treviso nel 1951. Loro non lo conoscevano, ma si offrirono di aiutarmi a cercarlo. Dove alloggi? Mi chiesero, e non lo so ancora. Telefonarono a casa alla moglie e alla madre e mi fecero preparare la camera degli ospiti. Restai da loro qualche giorno e poi tra i veneti cominciò la gara di chi stava con me più tempo possibile. Lo scopo del mio viaggio era il recupero di una memoria storica verso la seconda immigrazione. Una ragazza venuta dall'Italia che canta musica popolare accompagnata da una fisarmonica di legno fatta da suo padre. Ecco, questa era la voce che correva tra i fili del telefono. Ogni compleanno era mio, ogni festa era mia, ogni occasione di suonare, mia. Al Veneto Center di Toronto organizzarono dei tavolini con le carte fuori dalla stanza dove io facevo interviste, come dal dottore. Esce uno, entra un altro, e io lì ad ascoltare. Storie di vita che mi stavano cambiando dentro e fuori, come quando uno scultore estrae la statua dal tronco. Giunge voce prima a Ottawa, poi a Montreal, e tutti mi cercano perché io vada anche da loro a fare domande. Tutti si offrono per raccontarmi la loro storia di migrazione. In gita con gli alpini, in bicicletta per la capitale, a piedi nelle Little Italy, fuori da una casa, dentro un bar, via da una chiesa, dentro un cimitero. E poi Armando lo trovai. Vecchio. E in quel momento era lui che mi raccontava, come mia nonna tanti anni prima, la sua vita di emigrante. Lui mi guardava per cercare una somiglianza con i parenti, per cercare un volto familiare in quella foresta tetra. Per me è stato come incontrare il protagonista della fiaba della buonanotte e per lui è stato come tornare a casa. Quando sono tornata ho capito che la mia vita era davvero cambiata. Ho capito che il viaggio è la meta degli uomini liberi e io ero stata liberata. Thank you. È su un palcoscenico, Francesca, nella foto che ci ha mandato e che anche se siete in auto oggi, 30 di dicembre, quando tornate a casa andatevi a vedere sul nostro sito, che è il sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Ogni giorno ci facciamo mandare una foto insieme alla storia della persona che ce la racconta e che ce la scrive. E la foto di Francesca è una foto bellissima. Lei è in scena, ha una luce rossa sul suo viso, ha un vestito da sera nero elegante, perché evidentemente sta facendo spettacolo, imbraccia la sua fisarmonica, che è un oggetto meraviglioso, e ha la bocca socchiusa e gli occhi invece chiusi, e chiaramente sta cantando qualcosa. Pronto, Francesca? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Mazza, sembri in un sottoscala. Mi auguro tu sia invece in un posto dove possa prendere un po' meglio il telefono. Ecco, no, sono nella mia bottega. Sei in bottega in questo momento? Sì. Anche il 30 di dicembre, non molli un colpo proprio. Anche il 30 di dicembre. Francesca, innanzitutto grazie per questa storia che è veramente straordinaria e tra l'altro racconta mille cose diverse, perché parla di viaggio alla ricerca delle origini, parla di una sorta di reportage sull'immigrazione veneta, poi parla di musica e parla di un'azienda che ti sei costruita di fatto, perché prima leggevo in apertura un articolo dell'Huffington Post che parla di te, no? E racconta come tu a breve, poi andiamo al viaggio, prima volevo partire da questo, da poco tempo hai creato la nuova bottega, giusto? Dal 2011. Quindi sono 2 anni praticamente. Sì, 2 anni. Come hai deciso di metterti a costruire fisarmoniche? Diciamo che non è stata una decisione, diciamo che ho sempre detto che quando sarei diventata grande avrei fatto fisarmoniche e a un certo punto ho deciso di diventare grande. E sei diventata grande a quanti anni? Quando è che nel 2011 ne avevi? A 35. A 35. Cosa facevi prima nella vita? Da musicista. Ok, quindi tu continui a suonare però, giusto? Sì. In quanti siete in bottega? Da sola e ogni tanto passa mio papà a brontolare. Perché allora la storia la raccontavo prima, però ce la ripeti velocemente per chi non l'abbia sentita. Tuo papà già faceva fisarmoniche, giusto? Mio papà ha fondato il marchio Galliano nell'81, che è il suo marchio di produzione, e ha fondato questa sua bottega. Io sono cresciuta in bottega, sia io sia mio fratello. Poi mio fratello ha deciso di fare il cantante lirico. Sì. E io ho deciso di proseguire la ricerca etnomusicale, di portare avanti quello che è la ricerca storica legata al canto tradizionale e fare spettacoli, quindi lavoro in teatro con attori, musicisti. Senti, Galliano, te lo chiedo proprio perché so 2 cose di fisarmonica e di jazz, non ha a che fare con Richard Galliano, vero? È un caso che vi chiamate, avete il nome simile? Diciamo che Galliano nasce dalla fusione del nome e cognome di mio padre, che è Gallo Luciano. Ok. E nell'81, per decidere cosa scrivere negli strumenti, ha fuso nome e cognome e ha fondato il marchio. Ok, perfetto. E tra l'altro quest'estate ho avuto la fortuna di incontrare e intervistare Richard Galliano durante un festival. Lui mi raccontava del suo rapporto con la fisarmonica, che come il rapporto di tutti i musicisti. Lui ha una fisarmonica che, mi dice, gli regalò sua nonna 50 anni fa. E dice, ne ho una decina di fisarmoniche, ma lei è il mio strumento. Quanto vale questa cosa per un musicista anche come te? Ma diciamo che è tutto, lo strumento è tutto, perché è una parte di noi musicisti che è stata portata fuori ed è lì, è una parte di noi. Tu lavori per commissione, cioè ti chiedono di costruire una fisarmonica, la costruisci oppure tu le fai e poi le vendi? Io le faccio solo su commissione, in quanto partendo dall'albero, tutto il taglio dell'albero, tutta la stagionatura, e poi quando arrivo al musicista è un incontro tra il musicista e quell'albero che era stato tagliato. E quanto ci metti a fare una fisarmonica? Diciamo che uno strumento medio va dalle 350 alle 400 ore di lavoro. E, perdona, quanto costa una fisarmonica? Dipende. Dai 2.000 ai 10.000? No, anche dai 4 ai 10. Ok. Andiamo invece alla parte che ci hai raccontato nella storia, Francesca, al viaggio. Tu praticamente a un certo punto pigli e parti, no? Diciamola male, e decidi di fare un viaggio nello spazio ma anche nel tempo, no? Prima vai in Belgio e poi vai in Canada, o in Canada, come diceva la nonna. Tra l'altro io ti chiedo scusa e chiedo scusa a tutti i veneti per la pronuncia orribile del dialetto. Ci ho provato, ma sono di Novara, quindi ce l'ho messa tutta. Innanzitutto, che cosa ti sei fatta? Cosa ne hai fatto di tutto questo materiale che hai raccolto? Ma io lo racconto durante... Ho fatto uno spettacolo che si chiama La verità in valigia. Uh-huh. E l'ho portato fuori, questo racconto. Poi l'ho messo a disposizione dell'Istituto Storico che c'è qui a Treviso, ed è una parte del mio archivio, è lì all'Istituto Storico, e ne fanno tesi di laurea piuttosto che studi, ricerche varie. Perché prima del Canada vai in Belgio? perché l'emigrazione è cominciata con il Belgio. L'emigrazione veneta? Il primo protocollo, no, italiana, il primo protocollo d'intesa che De Gasperi ha fatto con uno stato estero è stato il Belgio. E quindi io ho cominciato da capo, insomma, dal Belgio. Ah, ok, tu quindi diciamo parti dal luogo in cui gli italiani vanno e poi invece vai in Canada, che è più vicino alla tua regione, giusto? Dove i tuoi parenti è Armandova. Sì, esatto. E quando l'hai incontrato sto Armando, mi dici che sensazione hai avuto, che faccia hai fatto, lui come ti guarda? Diciamo che è stato un po' così, un momento, un punto di domanda, ecco, un punto di domanda per capire cosa si poteva vedere in quella persona, cosa si poteva incontrare, cosa si poteva chiedere. Era un po' in soggezione, perché era come incontrare tipo Peter Pan, come fai a chiedergli, cosa gli chiedi, cosa ti viene in mente di vivere questa persona. E quindi è stato un po' un momento di silenzio, e poi insomma sono partita con tutte le domande del caso e lui mi ha raccontato effettivamente cosa è stata la sua emigrazione. Francesca, mi piacerebbe far finta che non lo so, in realtà te l'abbiamo chiesto, quindi so che tu hai con te la fisarmonica in questo momento e so che non si fa di chiedere suonare uno strumento al telefono, però te lo chiedo, è la fine dell'anno, domani è l'ultimo giorno dell'anno, mi fai questo regalo, mi suoni per 30 secondi qualcosa? Ti suono il ritornello di una canzone che è per me l'inno dell'emigrazione italiana in America, perché tutto quello che era Dea del Mar Grande, ossia Dea dell'Oceano, di l'Oceano, era chiamato America, cioè tutto era America. Ok. Sì. Grazie. Lei è Francesca Gallo, trovate tutte le informazioni su di lei e sulla sua bottega di fisarmonica su gallianoeploner.it. Francesca, io ti ringrazio moltissimo, è stato un regalo magnifico, la tua storia e il tuo pezzo di musica. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao, viva. Ciao. 349-238-6666, insomma lo dicevo che avremmo parlato di viaggi sulle tracce della propria famiglia oggi e devo dire che la storia di Francesca è esemplare, però voglio leggere alcuni messaggi che sono arrivati. Samir che è un nome egiziano, infatti mi scrive: mio padre è egiziano e ovviamente abbiamo una pizzeria, ovvio come se fosse scontato. Io sono nato in Italia e non ero stato in Egitto fino a 4 anni fa, quando ci andai per la prima volta, avevo 16 anni, il Cairo mi ha terrorizzato. Mi ha anche molto affascinato. E con questa chiudiamo questa penultima puntata del 2013. Io vi ricordo che potete scaricare tutte le puntate di le ultime 5 puntate di questo programma dal sito di Radio 24, dalle app per il vostro smartphone o da iTunes in abbonamento gratuito, o altrimenti in streaming tutte le puntate dell'anno. Domani è il 31 di dicembre, noi siamo qui, ma siamo qui anche all'1. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina. Grazie però soprattutto a Francesca, perché la storia e la musica di oggi erano la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Salvatore Nicosia, abito a Palermo, la storia di domani è la mia e parla di un viaggio con il padre da un paese della Sicilia a Palermo. Questa è la mia storia e io sono qui.